la attenzione 10. Cucù. Cicci cucù. Cucù miau. Ciao Gianni, ben entrato. Ho provato a chiamare 10 minuti fa, però non c'è nessuno ancora. Io non ce l'ho perché... lo sa. Festival della canzone. Oh già, ho scoperto una cosa qua che non sapevo. Allora, quell'adattatore che ho usato sul 9009 funziona perfettamente anche sui President. Praticamente i 6 piedini, perché sono 6 non 7, l'adattatore funziona perfettamente anche con questi apparati. Praticamente hanno la stessa identica piedinatura del 9009, quindi io questo microfono o anche quello da tavolo lo posso mettere anche su tutti i President, che sono 3. È una cosa buona. Adesso ce l'ho tipo mic normale, guarda, sto parlando, tolgo il talkback, tolgo l'autoascolto e mi devi dire come la timbrica. È buona, è sempre presente, è la tua voce, Marco. È buona, però la voce è presente. Io lo posso usare su 3 apparati, tranne che sul Ruiz, perché il Ruiz c'ha l'attacco diverso. Ma gli devo cambiare il microfono, perché questo microfono del Ruiz mi sta facendo alternata. Come tocco lo spinotto, non si sente più, capito? Un casino. O c'è qualche filo che tocca, Attualmente si sente. Ascolti, io il mic però l'ho configurato adesso come mic normale, cioè è al minimissimo. Vediamo se metto a metà, se su questo apparato rende. Guarda, così sono vicino, parlando col tono mio normale, e così sono lontano tutto il braccio. Vediamo un po', non vedo picchi però, Ora, 1, 2, 3, vedi com'è. Quando ti allontani si abbassa, è meglio quando ce l'hai vicino. E vediamo a manetta se regge. 1, 2, 3, prova. Vediamo se aumenta un po', perché ho idea che questi apparati comunque abbiano un limitatore, proprio un limitatore aggiuntivo. Dimmi se ha alzato la modulazione oppure è uguale. No, grazie. Perché qua non mi fa vedere i picchi, non li vedo. Li vedo, ma è lento l'ago a salire, capito? Ho scoperto una nuova cosa, almeno posso utilizzarlo con un po' più di audio, però non mi interessa tanto per questo, perché questo è AMFM omologato, mi interessava tanto per l'altro, quello con la banda laterale, President, perché in modo da sfruttare l'amplificato in banda laterale, capito? Picchi non li vedi perché sono tutti quanti dentro i buchi degli alberi adesso. Hai detto già, picchi non ne vedi perché? Sono tutti dentro i buchi degli alberi. Il picchio. No, è lento qua, l'ago è lento. Se faccio il fischio lo vedo, per esempio qua. Lontano tutto il braccio, vediamo. Sì, allora sale, e allora sale un bel pure. Va bene, una cosa buona e giusta, dai. Almeno si può utilizzare l'amplificato, non che in locale va bene anche normale. Capo, capo. E tu non sei tanto per gli amplificati, sei più per i microfoni normali. E più che altro sai cos'è già? Che con l'amplificato tu lo noterai anche qua. Se io parlo lontano sentirai l'effetto stanza, tipo rimbombare o roba del genere, presumo, No, ma però se ne sente. Ma forse è questo perché è stato modificato il microfono. Eia, comunque lo metto a metà. Vabbè, a metà dovrebbe andare bene, dai. Mi dà un po' più di peppe rispetto al Mac originale. Chissà che entri qualcuno, se no che te devo dire? Faccio una prova, guarda adesso come si sente col microfono vicino. È forte, ma a tratti fa... Troppo forte? Guarda a vedere se lo fa ancora più tru. No, meglio, così è meglio. Prima era eccessivo, ecco. Vabbè, da palmo. Comunque buoni questi KPO, perché hanno una modulazione, vedi, non cupa come il DM1000, che a me non piaceva, ma per una modulazione con molti bassi, non è acuta come può essere la static, ma è bella bilanciata, normale, ecco, come la voce che in teoria dovresti sentire in verticale. Ecco. Sì, il KP è un bel microfono. No, ma tu vado sopra nel Galaxy, aspetta che lo provo nel Galaxy, come va. E provo un po', io adesso attacco anche un altro apparato, dai. Prova anche il mio, buonasera. Buonasera signor Tore, come mi sente con l'amplificato sul presidente omologato? È messo solo a metà però, eh. Ah, io ti sento bene. No, non c'è nulla di particolare, però ti sento apparato amplificato. Eia, poi ripeto, questi dovrebbero avere un limitatore, cioè anche se tu li metti il guadagno microfonico a manetta da dentro, però hanno anche un limitatore in più e quello non va toccato però. Va bene, adesso Gianni cambia apparato e nel frattempo lo cambio anch'io, dai, adesso entra Gianni. No, io l'ho già cambiato, guarda come va questo KPO sul Galaxy Saturn Echo. Abbassa la pena. Marco, come va? Ciao Tom. Ciao Gian. Bene, ciao. Ma faccio una scena perché è troppo amplificato. Perché a me mi piace sfasciarvi le orecchie. L'importante è che non ci sfasci altro. Ascolta Marco, com'è migliore? Questo qua oppure l'MB4 secondo te? Già, allora, questo è già meno bassi, prima avevi molti passi, un po' rimbombava, cosa avevi prima, l'MB4? K. Questo diciamo ha più medio-alti, ecco, non ha in quell'effetto un po' di, ti ricordi che te l'avevo detto anche ieri, che certe volte non capisco tutto il parlato, invece così si capisce tutto il parlato. Cavagava, Tore! Allora, abbassa il MB4, l'hai abbassata appena? Va benissimo, ma infatti quello di ieri si sentiva il rimbombo del basso, qua invece è tutto a medio alto. Oh, Dani, si è perso? Aspetta un attimo, sto cambiando il microfono. Ma c'è quello che esce perfettamente. Ebbene, muoviti. No, era maggiore a te, mi ha detto, aspetta che sta cambiando il microfono. Sto già botto l'MP4 dopo. È il suo questo. Ah, il suo è messo. Normale. No, amplificato. Cosa ti stavo dicendo tu? Ah, potevi parlare con Marco, chi è che stava facendo con le prove? Fischiando, chi era? Oh, da me arrivi a basso. E comunque lo stacco di un cavo da quello lì, io nemmeno ci si sa. Ah boh, no, non lo so chi sia. Non si è presentato. Vabbè. Oh, io, che andiamo, che andiamo. Avanti, amico. No, entro. Marco, ciao, di Buddha, dentro. E aspetta già che ho fatto macello, stavo sbagliando, ho messo, ho detto vabbè, questo apparato ha la staffa sopra perché devo averlo usato in macchina, invece l'ho messo a cabin giosso, ma si può essere più esauriti. E funziona lo stesso? No, adesso l'ho messo giusto, ma ti vedevi comandi strani, disposti strani, siccome non uso da secoli, e c'è l'altoparlante frontale questo, quindi non è, anche se tappi l'altoparlante è frontale, non lo puoi chiudere. Adesso attacco le mic, allora questo è il mic originale, fateci l'orecchio, 1, 2, 3, prova. È buono, devo essere un po' volume, ma che è buono. E poi la propagazione, sì. Prova, 1, 2, 3, prova. Allora, aspetta che spengo il ricevitore, che mi fa rientro. vedete un po' come va. Allora, stesso Mike di prima, però è un altro presidente. Ci sono differenze nella modulazione? Un'enormità. Con questo arrivi molto, ma molto più forte. Ah sì, più forte. Fammi pensare, forse questo aveva le regolazioni interne dei trimmer per la M, mentre l'altro non ne aveva, non aveva trimmer, aveva solo le regolazioni da menu di servizio. Però essendo omologato, più di tanto non spinge. Guarda, a distanza, sono vicino al mic di taglio, il microfono è a metà ovviamente, vediamo se parla lontano, ora ora, vedo i picchi, vediamo se lo metto a manetta, abbassi in fascia adduttumi. Allora, lontano tutto il braccio, oppure vicino di taglio al mic, vedi tu già e poi Tore. No, mi pare proprio che ero distratto. Ehi, vedi un po', 1, 2, 3, tanto io lontano non parlo, mi lontano è così, 1, 2, 3, è così, è vicino di taglio al mic. Ma c'è una piccola differenza, ma proprio poco. E quindi va bene anche qua, se io me lo metto in grembo, in macchina, poggiato sulle gambe, modulo, nessuno mi vede. Sì, sì, va benissimo. Mi, però, quando premo, lo senti questo C? Sì. È un bip secco come quello dell'anno 48 più o meno, appena appena più corto. No, quello è il coso del pulsante, non è un bip, quello è quello del pulsante che annichisci, che ti fa del rumore. Eia. Vedi, allora il talk back è spento del tutto, però appena premo, sì, appena premo fa come un piccolo rientro, un istante solo, proprio il tempo di premere il PTT. Va bene, comunque a me interessa la timbrica, cioè che la modulazione sia capibile al 100% quando parlo, che non sia cupa, ovattata, roba del genere. Cioè come il presidente che c'ho io, che c'ha due trimmer, cioè, per regolazione. Quindi hai toccati e non ti basilisci male. Allora, quando lo compri di fabbrica, quei trimmer sono chiusi, almeno il trimmer dell'M è chiusissimo ed esce basso, meno di un omologato esce, quindi è necessario farglielo. L'altro trimmer inerente alla modulazione, sai cos'è? Allora, uno è il guadagno microfonico e ci siamo, e l'altro è il limitatore, c'hai anche il limitatore che se sbagli a impostarlo ti fa l'effetto pompa come parli c'è tutto è buono, tipo ma tipo protezione là. Sì, però seccante per sentire questo, un uccellino pare aperta nelle orecchie, vero Tore? Entra negli orecchi. Io gli ho messo un po' di cosa, gli ho messo per eliminarlo e non mi entra. Cerume. No, di cerume di cosa liquida che lo elimina, tipo olio o qualche altra cosa. CRC, come te dici che vuoi. Sto scherzando. Ti avevo capito, dai. Lo spray per contatto. Anche se no me lo fai pure a me nelle MP4. Raschia! Raschia si fa di cic cic. È un bel forte il muro. Che bizzone adesso. L'ho smontato, ma sai cosa ho fatto per non raschiare? Svegliato l'ho limato un po', l'ho toccato e gli ho messo un affare in gomma per non raschiare. Ah ecco, ho fatto la protezione. Sì, mi ha fatto la protezione, però l'ho dovuto raschiare un po' con il coso, con la specie di lima. Ma io pensavo che fosse un bip secco. No, te lo fa l'MP4 molte volte raschia e se buoni CDC o olio. Invece io l'ho raschiato e gli ho messo una guarnizione in gomma. Piccola, ma meno lì. ho capito. A parte Marco. Ehi. Caspita, vuol dire che sta pompando però, non è quasi forte questo fischietto che sentite all'inizio. Ho messo anche 4 watt, tipo, ho abbassato i watt, magari la modulazione ne giova un po'. Più che altro questo è in banda laterale, è utile. L'apparato è il President McKinley, è quello piccoletto che sembra un 40 canali MFM, invece c'ha MFM in bande laterali, CTCH, ecco, menate varie, un saccaccio di roba. Il problema è che c'hai solo 5 tasti e ogni tasto ha tripla funzione e ti devi ricordare ogni volta come attivare le varie funzioni dei pochi tasti presenti, capito? Perché non si può memorizzare la funzione anche voi? Oddio, no, questi sono fatti così. No, devi seguire la prassi. Oh, cose che si usano poco, sono opzioni che si usano poco, però la volta che la vuoi attivare ti devi ricordare oppure pigliare il manuale. Sai cos'è? Se lo usi tutti i giorni magari te lo ricordi, ma se lo usi poco, io d'altronde li devo far girare gli apparati. Quanti sei arrivato adesso? Quanti ne hai? Ne contano? No, già, non riesco a contarli. Non mi dico, intanto ne trovo uno. No, saranno una decina, saranno 12 massimo, contando gli omologati, 12, là, non di più. Però quelli a me, quelli che contano sono quelli con le bande laterali già, AMFM e bande laterali, gli altri sono di contorno, diciamo. Vai, Ittore. Via da te. Io laggiù, AMFM, che so che te attendi. Poi ce l'ho con l'omologato e altri due che sono di 4x4 di non avanti. E tanto basta uno, due al massimo, uno d'emergenza oppure che ne so, uno 40 canali MFM omologato e l'altro che può essere tipo un 3009 con le bande di sopra, quella lì. Il resto è solo, aspetta già, com'era quel termine? Il resto è solo shopping compulsivo. Infatti. Vabbè, ti viene l'Alzheimer ogni tanto. E mi prudono le mani nel portafogli quando non vedi i soldi là non se ne spendono, ma quando ci sono, ohia, vai Tore. No, pure c'è viraggio e chi vi rimane nel ferme e in chivi non si muovono, no. Che hanno detto che non ne devo comparare, non ne compareggio. Oh già, questo apparatino, se ti ricordi, l'avevamo provato a Piazzale Segni e l'avevamo attaccato in tua presenza ed era una friggitrice in ricezione, un QRM, sai, di quello pungente, tipo friggitrice. Marco, non mi ricordo, dai, dico la verità, non me lo ricordo, però ve l'avevamo fatto tanto a Piazzale Segni, ogni tanto si facevano le prove, chi se ne ricorda più. La vicenda è garrone. Te la giudite, poi do un asciugamano in capo. Appena umido per ricordare. Così è. No, sono passati troppo, è passato troppo tempo, magari. Lui se lo ricorda perché la parte era il suo. Ne ho fatto prove, ne ho fatto con lupo grigio, ne ho fatto con tanta gente di prove. Salvio, insomma ne ho fatto con 1000 persone, perché quando mi fermavo al quadrato si avvicinavano, facevamo le prove con un'antenna, con l'altra, con due antenne diverse, per vedere quale era più efficace. Già, questo, sai cosa puoi impostare? Le memorie, qua c'hai 3 o 4 memorie, forse 5, e ti metti i canali più usati, tipo puoi mettere il 10, il 12, che ne so, il 23, e li richiami direttamente dalla memoria, oppure puoi fare l'escansione all'interno delle sole memorie, capito? Dei canali di interesse, tutto lì, per il resto sono cose già predefinite. A te è questo che ti attira quando c'hanno qualcosa di diverso. No, questo magari era carino perché era compatto, con altoparlante frontale, per non mettere quei barrasoni tipo il 7009, che è enorme, è come il 3009. Non che non ci stia, ci sta, perché visto il sistema che ho usato io, no? Ho forato sotto il cassettino, lo aggancio di sotto con quei galletti a farfalla, rimane bello, perfetto, in posizione, appeso, è comodo anche da usare. Perché non li fa un impianto fisso direttamente senza stare a togliere gli voltaggi, metti, li fa un impianto fisso. Sì, ma qua rubano tutto già, cioè se io dovessi lasciare un apparato in macchina, basta che qualcuno lo intraveda, che sa che c'è, di notte apre la macchina e si porta via tutto, anche la macchina. No, ma l'apparato lo tuoi, non lasci l'apparato, ma dico, l'attacco dell'antenna, non mi ho messo fisso io. Ah, intendi quello, cioè bucare, no, già, se non ho bucato quell'altra macchina vecchia, tanto a me non buco questa, tanto guarda, la base magnetica fa il suo sporco lavoro, tu hai avuto modo di vedere che alla fine funziona bene lo stesso, e la macchina è più pulita, non vedi queste basi che spuntano, capito? La base dell'antenna, lo snodo, come lo vuoi chiamare. A me non piacciono le cose volanti, le uso proprio i capi volanti, inciampi, fai, no, no. Mi piace che io quindi l'impianto elettrico e quello dell'antenna ce li ho i fissi, poi l'antenna la tolgo, la metto dentro e via, tutto lì. Guarda, l'avrei fatto avendo il garage adatto alla macchina, cioè ogni sera io torno e la metto al garage. Noi ce l'abbiamo il garage, però è in una posizione tale che poi c'è roba dentro, non fa, la macchina non ci sta. La moto sì, molto comodamente, però la macchina no. Se non l'avrei fatto un impianto fisso, caspita, e vabbè. Sì, ma io ho un impianto, sì, io ho un impianto fatto con capi grossi, anche se non ho né lineare né nulla, però io l'ho fatto fare da un tecnico specializzato in audio, e mi ha messo tutti i capi per l'alta tensione, tutto quanto. Io l'unica cosa che avrei voluto provare a fare è passare il cavo dalla batteria come dall'altra macchina. Il problema è che a me me l'aveva fatto quello che è morto, quell'elettrauto. Mi serviva quella specie di sonda, come vuoi chiamare, che c'ha tipo la cruna, passi il cavo elettrico lì, lo spingi e lo fai passare nella zona dove i cavi entrano nell'abitacolo ed è fatto. Però non ce l'ho, eppure mi sta venendo a me, io ho questa idea fissa in testa. Io ricordo di aver avuto uno scovolino. È presente lo scovolino per le armi da fuoco, quello che c'è, questa bacchetta fatta in più sezioni, le avviti e alla fine c'è una cruna dove tu metti la pezzuola, lo straccetto per pulire la canna. Se riesco a trovarlo è fatta, perché posso utilizzare quello per arrivare dentro l'abitacolo, però non lo trovo più, chissà dove c'è uscito. Come pare io quella parte per passare il filo ce l'ho da qualche parte, ma se mi dici dove l'ho messo non mi ricordo, dovrei cercarlo, se lo trovo te lo faccio sapere, te lo presto. Sarebbe bello, magari giustamente lo metterei sotto fusibile, ovvio, non sia che poi fa corto dentro e piglia fuoco tutto qua, finisce peggio delle Tesla. Tore, riprendi, che vado a bere. Ma io l'avevo fatto l'impianto, non in questa macchina, ma nell'altra macchina, ma l'ho fatto tutto bene, fatto a norma, attaccato a un fusibile, ed era fatto bene, ci avevo facciato di in mezzo dentro un coso, non ci vedi a bannuda, rugavo in ghiera dove era passato, era nascosto il cavo dove l'avevo passato e lo vedevi dentro nel cofano. Il mio è tutto quanto fascettato, tutto fatto bene. In più è quel cavo grosso, quell'arancione, non so se ce l'hai presente, che rimane morbido. Quel cavo grosso lì, quello lì resiste anche in molti watt, capito? Se tu li metti in watt resiste. Non scarla, come ci si cavi prima, si usavano quei cavi rossi e neri, te ne ricordi? Io già, cos'ha la guaina in silicone, vero? Sei morbido in silicone. Sì, è quello. E poi mi ha messo anche il fusibile, tutto quanto, tutto fascettato bene, fatto passare in modo che non si veda nulla, proprio niente si vede. E poi ricordati che anche il silicone resiste alle alte temperature, resiste meglio al calore che c'è dentro il vano motore, capito? Mentre il filo rosso nero, vabbè, non gli succede niente perché l'ho già provato, però mai dire mai. A me mi sembra un sciuccio questo. E io mi vado in massa. Si è sciolto a me, quel cavolo lì. Ma forse perché ho messo quello troppo fino. E vabbè. Sbagliando si impara, ma. Quando penso in quella macchina c'avevo quella tromba della Midland, è presente quello Midland altoparlante a tromba per esterni, per usi esterni, l'avevo fissato nel vano motore, praticamente ci usavo il PA del baracchino, era nel vano motore orientato in basso in modo che il suono venisse riflesso dal pavimento, dalla strada un po' verso avanti. E una volta uno stava attraversando piano, sei piano proprio a sfottù, ho attaccato il piaccia o il baracchino, ho detto ma in dei sei andendi. È rimasto stupito, di aver tipo sentito questa voce tipo megafono, mi capito, così lo senti. Deve andare a vedere anche. Carciofi, patate, lumache, asparagi, belli. Oggi mi sono tutto l'ossizio, ho assaggiato le frittelle, non avevo mangiato ancora le frittelle di carnevale. Io niente. E ti dirò che francamente, perché le frittelle sono buone, però certe volte quell'olio, a seconda se le friggono, se le fanno troppo inzuppate d'olio, sono nauseanti. Però la bontà c'è, soprattutto quelle all'anice. Esatto, era proprio così, te lo stavo per dire, sentivo quel sapore dell'anice, buone. Non erano per niente intruse di olio, erano belle morbide, asciutte, non c'avevano olio per niente. Ma le ho comprate da nonna Isa, e ho preso un giro così per assaggiare. Non l'avevo mangiato quest'anno, almeno tu devi la soddisfazione di mangiare una briciola. Sono andato a comprarle, mi sono rimaste sullo stomaco perché le avevano finite. Sì, soprattutto vanno... Ah, le avevano finite. Per quello sono rimasto. Naturalmente da mangiare tiepide, le scaldi un po', che ne so, al microonde, le mangi calde, perché mangiate fredde, mamma mia che cosa cattiva. Vai, Ettore. Ho fatto... Io già me la giubilia di voi. Ho speso, ma io me la giubilia di voi. Accesoraccio me la giubilia di, va. Peso due giri dalle castagnole, cardigalli, gola crema. E sono buone, mamma mia. Ma da voi? Oi. La glicemia è in picco. No, devi entrare a camminare nel bagno, anche se no ti cagavi sotto. Che te ne la crema, dice gola crema a calcio. Sta gente che la giornata di che era ancora a gatto. Ho caldicato quando li ho mangiati. Quando sono qui ti farò con l'effetto. Oh già, io sto cominciando un po' a limitare il sale, ad autolimitarmi con la roba salata, perché per esempio l'altro giorno mi sono trovato la pressione alta, vabbè mi ero preso un'incazzatura con mamma che mi ha fatto sclerare, però avevo 175 la massima e la minima 100, la massima non era tanto massima, però la minima 100 non va bene. E poi mi sto limitando per quanto possibile anche con gli zuccheri, sennò sono rovinato se continuo così, Le bocche d'osso, ti piace la cioccolata a te? Tutto, cioccolata, gelati, merendine, tortine, tutto quello che do, tirami su, zuppa inglese, poi quelli non te ne dico niente, quelli non me ne dico, come si chiamano quelli... Non tirami su quell'altro, il profiterol con la panna dentro, il cioccolato sopra la panna dentro. Nostra signora. Va bene se li senti. Se me ne va bene, già mi sarà la glicemia a me. fanno delle ammesse, no? È che per queste cose, anche comprandole da discount, i prezzi sono saliti parecchio, parecchio, parecchio. Sì, profitterò, li pagavi tipo, adesso non mi ricordo se 2,99 pre-Covid, no, adesso 3,79, 3,89. Cioè, cominciano a pesare sul bilancio, ecco perché mi sto anche autolimitando, se no i noghi andiamo in fallimento. Marco, ma io, ci sta, dai, ogni tanto ci sta, certo non approfittate, ma ogni tanto un po' di coccole verso di noi ce le dobbiamo fare. Io vabbè, avrei bisogno di altro tipo di coccole, però non c'è la voglia già. Io oggi sono andato per questioni burocratiche anche dall'avvocato, questioni di terreni, di vendite, per fare la misera salita tra via Principessa Iolanda e via Le Trento. Sono tornato a casa che avevo il fiatone, il cuore a mille il fiatone, una stanchezza che non ti dico, e prima non era così. Chissà perché tutta questa stanchezza post vaccinale, non lo so, è un'ipotesi. Ma ti sei messo a correre? No, sono tornato a Passo Duomo, a Passo Duomo. Vabbè, sono arrivato anche in farmacia in via Gorizia, lì all'angolo con via Savoia, no? Quindi ho allungato di altri 50 metri, però sono tornato che avevo il fiatone e il cuore a mille. Allora, tu pensa che quando io sono andato al concerto di Gianna Nannini ho trovato per miracolo un parcheggio vicino a casa tua, dopo il bar lì, l'ho messa lì la macchina e me l'ho fatta tutta a piedi, scendendo e salendo. E grazie a Dio non me ne è venuta stanchezza. Sì, a me succede qualche volta che mi viene a casa, magari facendo la roba, poi mi sento molto stanco e mi devo sdraiare, quello sì, però camminando non mi ha fatto nessun effetto. Comunque fatti controllare il cuore, quando so queste cose qua è meglio controllarti. Controllarti il cuore, perché la stanchezza può dipendere anche da quello, magari se hai qualche aritmia cardiaca o qualche cosa del genere. Quello sì, il cuore in questi ultimi tempi, no, questi ultimi mesi, annetti, lo sento strano, come stanco, come proprio stanchezza a livello cardiaco, ecco come dire. E certe volte ho detto, ma mi devo preoccupare, devo fare ogni tanto extrasistole, che però sono di origine nervosa, quando ho capito. Però un'ecografia la dovrei fare, è inutile, cioè, dopo i 50 anni bisogna fare un bel controllo, il cuore, la canna, no, per sai, tumore del colon retto, meglio fare profilassi, che non a Giugana. Ti danno gli esami dopo 6 mesi, ti mandano a Oristano a fare un'ecografia, se non a Cagliari, ma vai, non è fattibile. E o paghi così. Io guarda, per il miracolo ho trovato un posto da ortopedico, ma per miracolo, non so, guarda, appena mi hanno fatto la richiesta al medico, ho chiamato il CUP verso l'ora di pranzo e l'ho trovato, c'è un posto libero, se gli interessa, il 18 c'è un posto libero, l'ho preso subito qua a Sassu. Sì, deve avere la fortuna anche che qualcuno magari lascia il suo posto all'ultimo momento, no? Disdicono e allora lo affidano a te, lo riservano a te. E purtroppo la sanità sta andando, te l'ho detto, stanno tagliando scuola, sanità, però devono aumentare il PIL, non so, per le armi, molte più armi, per pagare le guerre ai Zelensky. Vai Tore. Sì, ne gioca bene da... No, la sanità era un'altra cosa pure. Infatti, quelli di Bigone sono diventati proprio... Ah, io già ce l'ho fisso il cardiologo, quindi non mi preoccupeggio. Ce l'ho a settembre e quindi me la faccio a settembre la visita. E io devo fare la richiesta per farla dal cardiologo. Però... voglio controllarsi, ha ragione Marco, perché già siamo un po' più frequenza, se vogliamo pure noi non mi riesce. A proposito, vi è arrivata la lettera dell'ASL a casa che vi spiega che potete fare la profilassi gratuita appunto per il coso del colon retto. Potete andare in farmacia, vi danno il kit, che poi è il barattolino per le feci, voi a casa con calma fate il campione e poi lo riportate in farmacia, se ne occupano loro. Vi è arrivata la lettera? No, a me no. No, io ho anche, avrei anche il console per metterci le fici, però non mi è arrivato nulla, Marco. Forse sai cos'è, è arrivato anche a un mio coetaneo, credo che l'abbiano mandato alle persone che abbiano superato i 50 da poco. Magari chi più grande non la manda, non si presume che l'abbia già fatta, tutto gratis. E che mi vergogno io nella farmacia di fiducia a portare la mia cacca, cioè, mi fa strano, capito già? Ecco che mi voleva far capire che lo piangiano di lui, oi. Si sta bene, dopo ce la beviamo. A meno che non gliela produca lì, cioè per autenticare il campione, gliela faccio di fronte. Me la faccio autenticare. Che schifo. Più pensa chi l'analizza. Io ho un amico che fa questo lavoro qua, lo sai là, fa l'analista chimico e analizza feci, sperma, la pipì, tutto qua. Ma per loro è una cosa, una passione naturale, è un campione biologico, a noi fa strano magari, poi sai, consegnare la farmacia, comunque si occuperebbero del tutto loro, lo spedisco al laboratorio, il referto arriva non so se da me o da loro, eccetera. Vabbè, deciderò, dai. Fatta la spalla, sei gratis, scusa. Cosa dico? Se non è manco una manovra grossa che devi fare, devi andare in farmacia di Galvino. Però come dice, scusi, ma perché mi ha portato? Sei gratis. Guarda, gli porta il campione, vi ricordate la carta oleata? Glielo porto sfusa, Etti, tipo la roba che compravi da Piras, nella carta oleata glielo porto, come quando prendevi la ricotta sfusa, che schifo! L'estratto ti dà, l'estratto sfuso, te lo ricordo. A proposito, ma Piras, in Largo Cavallotti, esiste ancora Piras, Losa, o hanno chiuso anche loro? Perché Pasquali, Armeria, Articoli Sportivi aveva chiuso, dopo 100 anni di attività ha chiuso purtroppo. Ma loro di cosa campano? Piras, di cosa campa? Drogheria. Piras vende molte cose, vende anche le prugne secche per quando si stitico. Sì, perché un negozio come Piras aveva tempo quando non avevi tutti questi mega centri commerciali dove hanno tutto, di tutto e di più. Strano che forse loro lo fanno per vocazione, non lo so, per non starsene a casa, per non chiudere tutto. È brutto, mi chiudere un'attività magari che la butta, che ne so, il nonno, il padre, il figlio, eccetera. Ma magari è vero, perché io mi ricordo che mia nonna mi mandava lì a prendere le prugne secche, e hanno tutto sulla drogheria, c'erano molte cose, e molte cose la gente ancora le usa, ma adesso la gente sta mangiando maestrano, lenticchie, mangiano uve di lenticchie, mangiano verdure, tutte queste cose qui, non mangiano carne, mangiano queste cose qua. Ah, i vegetariani, io già mangio tutto, per quanto mi piacciono i legumi, lenticchie, ceci, fagioli, tutto quanto, della serie, prendetene e troviatene tutti. Marco, tu hai vitamina D, come sei messo? Non lo so già, non credo di avere carenze, per quanto non mangi frutta, io non mangio mai frutta o verdura, a dirla tutta, verdura ogni tanto, frutta proprio mai, ma sai cosa posso? Piglio prende quei tubetti di plurivitaminico, A, B, C, D, tutte le vitamine, ma lo metto, sciolgo una tavoletta in mezzo bicchiere d'acqua, ecco che ho assunto le vitamine. Perché hanno detto questo dottore su internet che chi ha carenza di vitamina D come dopo l'ossola praticamente si prende il cancro. Ha detto che è soggetto, che lo prende di sicuro, così ha detto. Beh, da verificare. No, a me manca la vitamina F. Come si è finito? No, al contrario, vitamina F, quella manca. Ho capito, già ti ho capito. Bisogna buscarla quella vitamina, quella non la puoi assumere. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Sì. Devi fare un po' di cose, andare a dire a qualcuno. Vai in affanculo, dice. La buschi subito. Vabbè ragazzi, buffonelli, si sono fatti quasi rotto, meno 5. Io vi devo lasciare, ok, ci risentiamo alle prossime. Grazie della partecipazione che abbiamo avuto, ci risentiamo alle prossime. Ciao a tutti, anche agli ascoltoni con le orecchie grandi. Ciao a tutti. Ciao Otto, ciao, buona serata, buona carica quando la fai, avanti va. Ciao Tore, buon proseguimento di serata, buona cena e buon tutto. Beh, ci sentiamo quando capita. Già, conviene anche a te andare mi per il cane. Oh, non lo so più, dai. Sì, sono anche io, adesso vado e porto a casa, mi è venuto qui. Come mi sente che saluto subito viene, ma te immagini quanto intelligente. E ti guarda con la faccia come gli aiuto, è ora di andare. Via. Va bene, ci sentiamo. Ciao a tutti, anche agli ascoltoni. Ciao. Ciao Marco, ciao. Buonasera anche a tutti gli ascoltoni.